Olimpia di Dario Ricci. Gico, se vuoi giocare da professionista, non puoi vergognarti di chi sei. Non so giocare come gli altri. Mostraci cosa accade quando hai il coraggio di accettare chi sei veramente. Si dice che non giochiamo tutti allo stesso modo, ma è per questo che siamo chi siamo. Noi abbiamo una cosa in comune: la gioia e il modo di esprimersi del Brasile. Siamo tutti ansiosi di vedere il suo magico stile di gioco. Vincerò la Coppa del Mondo per il Brasile. Te lo prometto. Logo que eu nasci, a enfermeira, uma amiga da minha mãe na época, disse que, olha Celeste, que é o nome da minha mãe, está nascendo um rei, e esse rei vai ser jogador de futebol. Aí a minha mãe falou, não, jogador de futebol não. Quando nacque, l'infermiera disse a mia madre Celeste, guarda, questo bambino sarà un re e sarà un calciatore. E lei disse, no, già mio marito è un calciatore, non guadagna molto. Sappiamo tutti come è andata a finire. Parole di Edson Arantes do Nascimento, in arte e per tutti Pelé, il più grande calciatore al mondo, anche se ovvio i pretendenti al titolo e le conseguenti polemiche non sono mai mancate, soprattutto di chi legittimamente rivendica il trono per Diego Armando Maradona o magari Alfredo Di Stefano. Beh, comunque Pelé, nomignolo che gli venne affibbiato da bambino e che all'inizio non gli piaceva neanche per un po', su quel trono ha tutti i numeri per starci. Nato il 23 ottobre 1940 a Tre Corações, nello stato di Minas Gerais, in 20 anni tra il 1957 e il 77 ha segnato 1281 gol in 1363 partite, vinto 3 titoli mondiali, unico calciatore nella storia col Brasile, 1958, 62 e 70, e 10 campionati paulista, 6 nazionali, 2 Coppe Libertadores e 2 intercontinentali con la maglia del Santos di San Paolo, la sua squadra del cuore. Prima di vincere anche un campionato statunitense con il New York Cosmos nella parte conclusiva della sua carriera. Inizia a tirare i primi calci nel Bauru, ma appena sedicenne viene notato dall'ex nazionale verdeoro Valdemar De Brito, che lo segnala al Santos. Inizia così un'ascesa inarrestabile, che lo porta a breve all'esordio proprio con la maglia del Brasile, come ricorda José Altafini, suo compagno in verdeoro e poi protagonista in Italia con le maglie di Milan, Napoli e Juventus. Ha esordito insieme a me in nazionale brasiliana contro l'Argentina a San Paolo, una partita veramente per la Coppa Roca, una partita veramente straordinaria dove il Brasile batté l'Argentina 2-0. Il primo gol di Pelé, secondo gol mio, e lì è stato l'inizio della grande e splendida carriera dei più grandi di tutti i giocatori di tutti i tempi. In realtà Pelé aveva fatto il suo esordio in nazionale pochi giorni prima, nella gara d'andata contro gli argentini, persa a Rio de Janeiro per 2-1 dai brasiliani. Entrato in campo dalla panchina su indicazione del CT Silvio Pirillo, il futuro O'Reilly aveva subito trovato il gol. Ero in panchina, avevo circa 16-17 anni. Non ci potevo credere. Il Maracanã era pieno di gente. C'erano 200.000 persone. Il Brasile giocava contro l'Argentina. Era una partita molto difficile. L'allenatore mi guardò e mi disse, su, entra in campo. Io cominciai a tremare, ma lui insistette, forza, giochi nel secondo tempo. Ero preparato atleticamente, ma non avevo esperienza. Quel giorno però ebbi fortuna, perché segnai il mio primo gol in nazionale. Avevo 16 anni. Per me è stato come vivere in un sogno. Dopo quell'esperienza ho acquisito molta fiducia in me stesso. Ci fu la selezione per i mondiali, la selezione per giocare in Svezia. A 17 anni sono diventato campione del mondo giocando nella nazionale brasiliana. Una cosa incredibile. Continuavo a chiedermi, mio Dio, ma è proprio vero? Mi sembrava impossibile. Neanche diciottenne, quindi Pelé si apprestava a diventare protagonista di quel Brasile che nel 1958 in Svezia avrebbe conquistato la sua prima Coppa Rimé, il titolo mondiale. Partito come riserva proprio di Altafini, Pelé diventa titolare e decide con un gol il quarto di finale contro il Galles, segna una tripletta nella semifinale vinta per 5-2 contro la Francia. Vai tentar cruzar para a boca do gol. Fala para o gol! Gol de Pelé! Aí o portão para Pelé. Gol! Gol de Pelé para o Brasil! Que jogada! Didi lançando o Pelé. Vai entrar na área sozinho. Parou, virou, fugiu. Gol! Pelé para o Brasil! Il 29 giugno 1958 a Stoccolma il Brasile affronta in finale la Svezia padrona di casa, capitanata dal milanista Nils Liedholm, che pur malconcio per le botte rimediate nella finale di Coppa Campioni persa con Real Madrid poche settimane prima, porta i suoi in vantaggio. Io avevo detto ai ragazzi prima, cerchiamo a fare gol subito, perché io ho tanto male una quella gamba che mi avevano picchiato i madrileni. È stato un passaggio da Simonson, da destra, e io sono andato su, non so perché, e ho trovato Bellini e Zito in mezzo a loro due, e allora ho fatto stop, e stop è venuto un dribbling e ho potuto tirare in porta a fare gol. Ma poi il Brasile si scatena, finisce 5-2 e Pelé mette a segno una doppietta da leggenda. Fernando para Pelé, Pelé domina lo peito, di calcanhar para Zagallo, Zagallo prepara, si tem Pelé, levantou, Pelé entrou di cabeça para o arco e gol! 4 anni dopo la storia si ripete, ai mondiali di Cile 1962, anche se Pelé stavolta è un po' meno protagonista. Fermato da un infortunio lascia il ruolo di trascinatore ad Amarildo e Garrincha, e dire che contro il Messico, battuto per 2-0, aveva realizzato un altro gol favoloso. Pelé, il brujo haciendo jugada, però le hanno interceptato, e entrò con la forza di una locomotora, no hay quien lo pare, y el disparo fabuloso de este señor Pelé. Y verdaderamente entró como una locomotora. Ma intanto il brasiliano continuava a disegnare il proprio mito anche con la maglia del Santos. Santos, lançado Pelé, penetra Pelé, perigo. Aí o segundo gol! Exatamente pela esquerda, meteu-se Pelé, atenção. Jogada extraordinária do ataque do Santos. Perigo, atenção, disparou a fera. E... olha lá! Nel 1962 vince la prima Libertadores e poi la Coppa Intercontinentale contro il Benfica di Eusebio. E nel 63 i brasiliani fanno il bis in Sud America e anche nell'Intercontinentale. Quanto formerà con Gilmar? Come numero 2 Mauro, con il numero 3 Dalmo, con il 4 Ismael, numero 5 Lima, numero 6 Haroldo, 7 Torval, 8 Mengalvio, 9 Coitinho. Numero 10, Almir, nuestro conocido que fuera de Boca, y Pepe como número 11. No juegan Pelé, el rey no está presente hoy aquí en Maracaná. Decisive tre dure partite contro il Milan, che vince 4-2 a Milano, unica delle tre gare che vede in campo Pelé. Viene sconfitto poi con lo stesso risultato nel ritorno a Rio de Janeiro e poi va KO per 1-0 sempre a Rio, nella bella. Così il grande compianto Cesare Maldini, bandiera rossonera, aveva ricordato a Radio 24 quella finale. Fu una bellissima sfida, vincemmo meritatamente, eravamo quasi sicuri che nella gara di ritorno avremmo fatto noi la partita, come è stata quasi per circa un tempo. I primi 45 della seconda partita sono stati meravigliosi, vincevamo ancora 2-0. Tra un tempo e l'altro ci venne un acquazzone incredibile, allagò completamente il campo. E poi non solamente le condizioni meteorologiche ci erano sfavorevoli, bensì anche l'arbitro della gara, che era un argentino, un certo Brozzi. Siamo andati sotto di 4 gol per 4-2 e poi bisognava rifare un'altra partita con la Bella. Noi volevamo andare a giocare, ricordo benissimo, in un campo neutro, non ci hanno dato questa possibilità. Giocavamo dopo 24 ore sempre a Rio e perdemmo 1-0 su calcio di rigore con una mia espulsione per aver commesso un fallo e per aver risposto all'arbitro. Si doveva giocare sempre col medesimo arbitro. Io ho avuto a che dire prima della gara della terza partita, poi la FIFA fece una indagine su questo arbitro internazionale e lo radiò a vita. Da grande uomo di sport, Cesare Maldini riconosceva però il valore di quel Santos. Grandissimi giocatori, soprattutto anche, cioè, il più famoso al mondo, che era Pelé. Giocatori di qualità ne avevano tantissimi. I colpi di Pelé restavano negli occhi e nella memoria. Era un giocatore speciale, era un giocatore che era attaccante, era difensore, era un po' tutto, era un po' l'essenza di quello che poteva essere un calciatore, ecco. Questo era un campione universale. Raramente, ricordava Maldini, un club si è identificato in maniera così definitiva con un unico grande campione. Qui stiamo parlando di un giocatore che è stato il primo della classe e che viene ricordato forse come il numero uno al mondo. Credo che Pelé è stato il Santos. E neppure andava considerato un limite nella carriera di Pelé aver di fatto vestito quell'unica maglia. Non è un limite anche perché non era solamente una squadra che la faceva da padrone in Sud America o in Brasile. Era una squadra che girava il mondo. È una specie di squadra spettacolo, ecco. E come primo attore il Santos aveva Pelé. Nelle parole di Cesare Maldini, il senso di un segno indelebile nella storia del calcio. Gilmar, ma avevano tanti giocatori, c'era anche Mauro, un grande centromediano metodista, capitano, no? Ma erano tantissimi giocatori buoni. Diciamo che il Santos ha lasciato come eredità Pelé. Il Santos per tutta la sua storia calcistica sarà ricordato come la squadra di Pelé. Qualche istante di pausa ora, poi qui a Olimpia continueremo a rivivere la leggenda di Edson Arantes do Nascimento, in arte. Olimpia di Dario Ricci. Atenção, o Maracanã todo está aqui fremente de expectativa. Manuel Amaro, Pelé baixou a cabeça. Olhem só Pelé. Pelé virou as costas. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Ho molte cose belle da ricordare. Ad esempio, mi ricordo del mio 1000° gol nello stadio Maracanã. Era un gol su rigore, ma comunque fu molto importante. Novembre 1969, per molti tifosi brasiliani è il giorno della sublimazione da calciatore a divinità di Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé. La sua squadra, il Santos, affronta al Maracanã di Rio de Janeiro il Vasco de Gama per la Taça de Prata. Quando Pelé gioca questa partita, dati statistici alla mano, ha realizzato 999 gol. Solo uno ne manca al millesimo, un traguardo inimmaginabile, fuori da ogni schema logico per un giocatore che ha già vinto tutto col Santos e col Brasile. Eppure Pelé è a un passo da quel primato incredibile che, ironia degli dei del calcio, arriva nel modo più banale, un calcio di rigore che Orrey realizza al 34esimo della ripresa nella sfida vinta per 2-1 dal suo Santos contro il Vasco. Per Pelé è l'ennesimo trionfo, ma la stampa brasiliana celebra, ancora con ironia sublime, anche il portiere del Vasco, l'argentino Andrada, che entra a sua volta nella storia in una delle giornate simbolo del football mondiale. Ma per Pelé c'è un altro primato ancora più emblematico e significativo da conquistare. Dopo il fallimento ai Mondiali d'Inghilterra 1966, il Brasile vuole conquistare nel 1970 in Messico per la terza volta la Coppa Arimé, che verrà assegnata a titolo definitivo proprio alla nazionale che riuscirà a vincerla per 3 volte, e a quota 2 insieme ai brasiliani c'è l'Italia. Il cammino verso il Messico dei Verdeoro è burrascoso. Alla guida della nazionale, che pure conquista 12 vittorie di fila, c'è João Saldanha, ex giocatore e giornalista, però inviso al regime dei generali che in quegli anni aveva preso il potere nel paese per le sue radicali simpatie di sinistra. Non a caso quindi Saldanha venne esonerato alla vigilia del torneo e sostituito da Mario Zagallo, ex componente della squadra bicampione nel 1958 e nel 62. A distanza di anni, distaccato il giudizio di Pelé sullo stesso Saldanha. Saldanha non era un allenatore, Saldanha era un giornalista. E aí c'è il presidente che era John Avelange, che dopo va a FIFA, ele pegou a Saldanha, che era suo amico, e falou: ok, tu devi lavorare nella squadra del Brasil. Io penso che nel momento fu una buona decisione per il Brasil. Il campo dà però ragione a Orrey e alla Federcalcio Verdeoro. Il 21 giugno 1970 allo stadio Azteca di Città del Messico il Brasile affronta nella finale della Coppa del Mondo l'Italia di Riva, Boninsegna e dell'ormai famigerata staffetta tra Mazzola e Rivera, approdata all'atto conclusivo dopo l'epica vittoria per 4-3 in semifinale sulla Germania Ovest ai supplementari. Contro gli assi brasiliani, le fatiche di quella battaglia lasciano il segno negli azzurri di Valcareggi. Ed è proprio Pelé, dopo 18 minuti, ad inaugurare il samba brasiliano. La rimessa in gioco di Tosso, Riverino. Un cross di Riverino, colpo di testa di Pelé. E il Brasile in vantaggio. Ha segnato Pelé al 18° minuto. Tarcisio Burnic ricorda così quella rete. Anche se lui era un grande, il primo Luis Rivera, cioè Luis Rivera, Maradona e Di Stefano sono i primi, mi ha preso in contropiede perché io pensavo lui era pari con me, io siccome arrivava il cross di Rivellino ho fatto un passo in avanti, mentre i brasiliani come calciano sotto e il pallone ha fatto come si è alzato. E io ero in contropiede, è andato su bene, però senza contrasto, senza di nessuno. È stato un bellissimo gol da parte sua, però era da solo, non era così contrastato da nessuno. L'Italia però reagisce e trova il pareggio a fine primo tempo su un'insistita azione di Boninsegna. Boninsegna, Boninsegna, Boninsegna! Tiro di Boninsegna, il pareggio, pareggio di Boninsegna! Boninsegna ha pareggiato al 38esimo. Nella ripresa però fatica e classe dei brasiliani hanno il sopravvento. Jairzinho l'ha fermato Facchetti, ma tira Gerson improvvisamente di sinistro e porta in vantaggio di nuovo il Brasile. Gerson alla palla che l'ha toccata Everaldo. Nuovo passaggio in aria per Pelé. Jairzinho. 3-1 per il Brasile. Ha segnato Jairzinho. Everaldo. E poi ecco il lancio sulla sinistra per Jairzinho che ha cambiato posizione. Jairzinho. Pelé. Carlos Alberto. E sono fatto. ed ecco il fischio finale che chiude la rimessa. Il Brasile è campione del mondo. Il Brasile si porta a casa la Coppa Rimé e Pelé è il suo profeta. L'Italia torna a casa invece tra le polemiche. Per i soli 6 minuti conclusivi concessi da Valcareggio e Rivera, l'eroe della vittoria sui tedeschi. Era più una questione politica che tecnica. È stato fatto male il conto, insomma, per cui alla fine hanno vinto il Brasile e io pur essendo perdente. Ancora oggi quella sconfitta è il rimpianto più grande, anche nella carriera di Sandro Mazzola. Era il Brasile di Pelé, quindi ci può stare. Però ancora quando ogni tanto ci troviamo noi vecchi di quegli anni, che parliamo di quella finale, l'abbiamo anche rivista, per un'ora mentavamo più noi di loro. Poi dopo sono venuti fuori i supplementari con la Germania, perché fare i supplementari a 2000 metri d'altezza era stato molto pesante. Infatti il nostro sogno, quando ci incontriamo e ne parliamo, è rincontriamo il Brasile ma alla pari come stanchezza, poi magari perdiamo ugualmente perché là era un fenomeno, però anche noi non eravamo mica male. His real name is Edson Arantes do Nascimento. To millions of soccer fans he is known as Pelé, number 10, the most celebrated player in the history of the game. He has led Brazil to 3 World Cup titles, scoring more goals than any professional player in history. Today he joins the New York Cosmos and the North American Soccer League. Ma c'è ancora un ultimo capitolo da scrivere nella carriera e nella vita del re del calcio. Dopo un primo ritiro nel 1974, attratto dai dollari della nascente Lega Americana, Pelé torna nel 1975 a giocare proprio con la maglia dei New York Cosmos. Il começo do Cosmos foi trágico. O começo do Cosmos foi muito trágico porque era uma equipe. L'inizio non fu per niente facile, ricorda Pelé, anzi tragico, davvero tragico. Eravamo una squadra giovane, per larga parte fatta da studenti, e allora perdevamo spesso, 3-0, 4-1. Mi guardavo intorno e mi chiedevo, ma dove sono finito? Poi arrivarono campioni come Beckenbauer, Carlos Alberto, l'italiano Giorgio Chinaglia, e la musica cambiò decisamente. Apri la portiera che io vou voltar. Nova York mi fa chorare. Abra la portiera che io vou voltar. Aqui non tenho che io tenho là. E una musica, una canzone scritta da lui stesso, è anche l'emblema della nostalgia che lo riporta in Brasile. Dopo aver vinto il titolo americano nel 1977 e chiuso il 1 ottobre di quello stesso anno anche la sua seconda carriera con un amichevole, manco a dirlo, tra Cosmos e Santos. Da allora Pelé è diventato icona globale del football di ieri e di oggi, e anche di domani. Ma cosa ne ha fatto un giocatore unico, inimitabile? Gianni Rivera ne offre un ritratto che è una pennellata d'autore. Se non ci fosse stato il calcio, probabilmente l'avrebbe inventato lui. Calciava con tutti e due i piedi nello stesso modo, con la stessa potenza e con la stessa sensibilità. Tanto è vero che qualche volta avevi il dubbio se era destro o sinistro, non si riusciva a capire. Era destro, ma il sinistro era praticamente come il destro. Una volta l'hanno visto in porta e l'hanno scambiato per un portiere. Parole condivise da José Altafini. Pelé era un giocatore acrobatico, veloce, saltava bene di testa, tirava bene le punizioni, portava il pallone con la sinistra. Mentre teneva l'avversario sulla destra, portava il pallone con la destra mentre teneva l'avversario sulla sinistra, aveva il calcio nel sangue. Edson Arantes do Nascimento, il più grande giocatore di tutti i tempi, incontrastato, re dei re, questo era Pelé. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E a chi gli chiede se mai ci sarà un altro come lui, vorrei risponde con un sorriso che si estende su tutto il mondo del football globale. Da quando gioco, tutti hanno cominciato a chiedersi se mai ci sarebbe stato un altro Pelé. E io dico sempre, non è possibile, perché mio padre e mia madre hanno chiuso bottega. Nessun altro Pelé. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.